battiti ancora le spari. Scrosciore scoppiettati si avvicinano. Ora invece c'è silenzio, chi do prima do lamento. Secondi di silenzio. Prima dell'eterno lamento. E cinco lamento un forza picciriti e femmini si chiangiano rincuoto sciauriano carne e provolazzo sciauriano e si è e sette o vento canciao mutauri da panna e o sciauro mutao si sente fieto de marti giornaliera e accavato do vento son picanta chitarra chi vibra lamento chissà per quanto tempo. Sega siamo tutti e un suono do silenzio che non ne fa capire mo c'hanno ne lontano l'essenza e civiltà, l'assenza e civiltà, l'assenzio, una parte di assenzio, cinque parti d'acqua. Grazie.